Radio Onda Rossa 87.9, la modulazione di frequenza dal 1977, la voce dei senza voce, la radio di chi se la sente. Potete contribuire a farla vivere. Uno dei modi è la sottoscrizione sul conto corrente postale 61804001. Oppure potete consultare il sito internet della radio ondarossa.info. Sull'home page c'è sostieni per le modalità telematiche di sottoscrizione. Siamo all'appuntamento con il cinema, Visionari, tutti i giovedì dalle 14 alle 15. La scaletta della puntata di oggi e sulla trasmissione in generale la trovate sul sito della radio alla voce trasmissioni Visionari, sulla pagina Facebook di Visionari. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Ci ascoltate in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza, ma anche in streaming, perché sull'home page del sito c'è ascolta la diretta. Non l'avevamo inserito in scaletta, però il comunicato mi è arrivato ieri nel pomeriggio. Siccome c'erano delle cose interessanti in programmazione, ho pensato bene di contattare il Detour e quindi ne parleremo con Cristina. Ci sei, Cristina? Eccomi, ciao a tutti. Ben ritrovata. Grazie. Allora, una programmazione che mette in cantiere alcuni inediti d'autore, insomma, e quindi mi sembra il caso di segnalarli. Grazie. Infatti sì, adesso che do un'occhiata a tutto il programma insieme, tutti i inediti d'autore, non ce ne eravamo neanche accorti, bravo, spirito critico. Sì, diciamo che c'è una lista di inediti d'autore, Mr. Nobody di Jacob van Dormael, che adesso è ancora in sala per un film, un suo film che sta andando anche benissimo, Dio esiste e vive a Bruxelles, e questo invece è un suo film, Mr. Nobody, che tratta sempre strani modi di raccontare la vita, il tempo, è molto, molto surreale, bellissima fotografia, splendida regia, un bellissimo lavoro. E questo, ecco, questo è Mr. Nobody. E il 30, sabato e domenica, ecco, adesso sintetizziamo, sabato e domenica alle 8. Okay. Poi abbiamo un altro grande inedito di Ken Loach, Up the Junction, che è una storia di tre ragazze della working class londinese di metà anni 60, e scene girate dal vivo, seguendo le loro vite, cosa fanno, cosa succede, e in questo modo nel loro quotidiano porta sullo schermo tematiche vive, attuali, ai tempi, calde, come l'aborto, il sesso, e una visione al femminile, ecco, di un Loach inedito. Okay. E poi nuovo cinema basco in collaborazione con l'associazione Euskara, che probabilmente molti di voi già conoscono, nostri cari amici, e un altro inedito di due dei pupilli del nuovo cinema basco, si chiama questo film L'Oreac in basco, Flowers o Fiori in italiano, e molto bello anche questo, un po' un thriller poetico, sempre un lavoro dei pensieri sulla vita, sul modo di vivere e di prendere le cose che succedono, diciamo, in un certo modo. Sì, sì, sì, sì. E poi continuiamo con Jodorowsky, a grande richiesta, La danza della realtà. Siete tra l'altro una delle poche sale che lo hanno programmato e che continuano a programmarlo. Sì, infatti è una cosa molto strana, ma anche si fa in collaborazione con Garabombo, che è la distribuzione che ha preso in cura questo film meraviglioso, e escono tutti estasiati e non si capisce sinceramente perché ce l'abbiamo solo noi, cioè si capisce e non si capisce, dei misteri che noi siamo stati molto contenti, anzi veramente Sergio le ha proprio state addosso per dateci. Infatti abbiamo fatto bene, perché è una gran bella cosa, bene. È una bella situazione, gente tutta contenta, e questo a noi ovviamente fa piacere, soprattutto un certo tipo di cinema che, ecco, non si trova in altri posti o in pochi posti. proprio per questo abbiamo parlato degli inediti che proponete per questo mese, insomma. Bene, grazie Federico. Allora Cristina, diamo anche le indicazioni per la programmazione in rete, certo. Qualche indirizzo e poi ci salutiamo. Benissimo, allora il nostro sito è www.cinedetour.it e per chi non lo sapesse il nostro Facebook che è quello ovviamente più aggiornato, più veloce anche per le ultime novità tipo sold out per Jodorowsky a ore 21 così e Cineclub de Tour. E poi vi consigliamo vivamente quando venite per la prima volta di fare il pretesseramento online che trovate sul sito, in alto c'è scritto tesseramento online, per ora è ancora bene in vista, proprio la prima cosa che trovate, ed è straconsigliato per evitare di dover compilare quei cedolini terribili quindi al volo così, poi adesso con lo smartphone so 30 secondi e quindi rende tutto più facile. Okay. E Federico, grazie a tutti, vi aspettiamo alla prossima, ciao. Grazie, ciao, buona Cristina. Trasmissione, ciao, grazie Cristina del Cine Club de Tour sulla programmazione degli inediti per questo mese, fine mese di gennaio, inizi febbraio. Eccoci con Andrea Paco Mariani di Distribuzioni dal Basso per parlare delle novità del mese, le uscite di gennaio, le proposte di gennaio. Paco, ben ritrovato. Buongiorno a tutte e tutti. Allora, mi sembra che ogni mese tirate fuori dal cilindro cose che attirano soprattutto l'attenzione di visionari, ma immagino anche di tutti i cinefili. Cosa succede questo mese, Paco? Sì, questo mese abbiamo anzitutto inserito delle nuove proposte, in particolar modo sempre sul fronte del documentario, in particolar modo due lavori. Uno è This is Not Paradise della Sunset Società Cooperativa, che è un gruppo, un collettivo di Forlì con cui collaboriamo da anni e abbiamo tutto il catalogo loro nel nostro archivio. E l'ultimo film è appunto ambientato in Libano e soprattutto la cosa molto bella è che è andato tra i finalisti dell'Al Jazeera Film Festival 2015, quindi ha avuto anche un ottimo successo sul fronte festival all'estero. Sì. Il secondo si chiama The Invasion, invece va ad arricchire la sezione ecologia e territori e racconta di una situazione che si sta sviluppando in questi ultimi anni, soprattutto nel nord Italia, legata alla proliferazione della nutria, di questo animale da fiume, e chiaramente quindi è più un reportage che cerca di raccontare non solo un tema che poco si conosce, ma anche purtroppo il business che si è generato dietro a questo problema e soprattutto legato a quello che è anche il contenimento di questa appunto eccessiva proliferazione di questa specie. Sì, è una specie invasiva, perché ricordo anni fa qui a Roma in un parco pubblico dovettero toglierle perché stavano distruggendo veramente l'ecosistema del lago. Sì, purtroppo ovviamente come spesso accade, anche in questo caso è così. E se si va a scavare, passami il gioco di parole, si scopre che non solo l'arrivo e la proliferazione sono figlie di operazioni di business, certo. Ma soprattutto adesso l'operazione di business si è spostata in quello che è il tentativo di contenere e di arginare il fenomeno, fondamentalmente. Per cui, come in tanti altri documentari che ospitiamo, che sono spesso appunto inchieste, reportage sul fronte ambiente e ambientalismo e territori, purtroppo il filo conduttore rimane sempre quello di forme di business che poi vanno a devastare degli equilibri, no? In questo caso più legati appunto a equilibri di natura ecologica, sì. Però purtroppo quello che vediamo è che il filo conduttore rimane sempre quello, cioè l'intervento, sì, dell'uomo, sia nella fase iniziale che poi nel tentativo di contenere ciò che si genera da questo. Sì, ecco. Certo. E invece no, ci tenevo molto a farvi presente un altro aspetto, che è un grande passo che noi abbiamo finalmente deciso di fare, ovvero l'apertura di una nuova sezione sul sito, l'apertura del nostro catalogo e soprattutto del nostro modo di distribuire opere creative al mondo dell'editoria indipendente. Abbiamo deciso di iniziare con questo, diciamo, esperimento pilota, con questo bellissimo libro che è appena uscito, che si chiama Resistenza in Cirenaica, che è tutto, è un lavoro di ricostruzione realizzato in questo quartiere di Bologna che appunto si chiama Cirenaica, ed è un lavoro di ricostruzione storiografica che tocca parallelamente il tema del colonialismo italiano, perché dal nome che ha questo quartiere potete intuire da dove nasce questo nome. Vi dico solo che la via principale di questo quartiere si chiama Via Libia, ma dall'altra parte la compresenza di tantissime strade che sono state poi, dopo la Seconda Guerra Mondiale, dopo la Resistenza, intitolate a partigiani italiani. E c'è questa quindi anomala compresenza di due toponomastiche completamente diverse, e da questa riflessione nasce tutto un lavoro di ricerca storiografica legato anche ai temi della Resistenza. È un libro che è stato scritto a mani, che ha avuto, diciamo, il punto di incontro di tante esperienze dentro VAG 61, che è il centro sociale di Bologna dove anche noi abbiamo sede, e tra questi ci sono anche appunto gruppi di scrittori come il gruppo dei Wuming, il gruppo dei Kaizen e altri gruppi, e ci è sembrato il modo migliore per iniziare a portare, ad affrontare il problema della distribuzione, della diffusione delle opere creative anche in ambito di editoria indipendente, nel senso che appunto da febbraio inizieremo ad ospitare interi gruppi di piccoli editori indipendenti, cercando anche assieme a loro, come è stato per gli autori dei documentari, di affrontare questa sfida e questo nuovo modo di concepire l'accessibilità e la sostenibilità delle opere creative. Bene. Tra l'altro mi veniva in mente una curiosità rispetto, sì, al vostro lavoro di restauro e di raccolta di materiale d'archivio. Le attività come stanno andando? Molto bene, anche lì chiaramente è legato anche un po' alle forze che possiamo mettere in campo, perché quello è una sezione che, diciamo, è completamente in streaming gratuito, quindi cerchiamo mese per mese di inserire nuove cose, e tra questo adesso stiamo lavorando a stretto giro con i ragazzi di Frame Off, che sono questo collettivo di videomaker siciliani, con i quali appunto andremo non solo ad inserire nel catalogo ufficiale alcuni loro lavori che come già sono presenti, come il Fingleno, ma anche Ufficio Sangu, ma soprattutto con loro andremo ad integrare anche tutta una serie di materiali d'archivio che loro hanno raccolto negli anni nella loro ricerca giù in Sicilia, e quindi si arricchirà anche di ulteriori materiali, anche, diciamo, molto più eterogenei rispetto a quelli che abbiamo adesso. Presenteremo questa cosa, tra l'altro, sempre qui a VAG 61 domani sera, all'interno di una nostra iniziativa qui a Bologna, dove appunto ci saranno ospiti anche i ragazzi del collettivo Frame Off, che sono arrivati ora dalla Sicilia con l'aereo. Bene, allora Paco, ci lasci tutti i riferimenti internet per visitarvi? Certamente, chiunque fosse interessato non solo appunto a dare un'occhiata al nostro catalogo di documentari e da oggi anche di libri, può andare sul sito www.distribuzionidalbasso.com, ma anche e soprattutto autori, scrittori, videomaker che hanno dei loro progetti creativi e che vogliono porsi insieme a noi il problema di come poterli fare distribuire in maniera alternativa e come fare rete tra autori indipendenti. Sempre sul sito di Distribuzione al Basso ci sono tutte le sottopagine dedicate per poter mandarci qualsiasi proposta da parte appunto delle persone che hanno dei materiali che possono essere non solo utili al catalogo, ma importanti in termini di diffusione e di storie da raccontare che possano appunto circuitare il più possibile su una scala nazionale come sta succedendo oggi. Paco, un abbraccio e alla prossima. Grazie a voi. Ciao. Andrea Paco Mariani di Distribuzioni dal Basso sulle proposte del mese. Eccoci con Valentina Valentini, che è autrice del libro Medium senza Medium, sull'incontro, il video dopo gli anni 90, che si svolgerà oggi all'Accademia di Belle Arti qui a Roma, oggi giovedì 28 gennaio. Valentina, benvenuta a Visionari. Buonasera. Su Radio Onda Rossa. Buonasera. Come va? Come va? Benissimo, benissimo, benissimo. Avremo già tanti studenti ad ascoltare questa presentazione. È un libro che nasce da un'esigenza maturata in tanti anni, in cui abbiamo assistito quasi alla scomparsa anche della parola video, sostituita da film, cioè è diventato tutto film, è diventato tutto cinema, nel momento in cui il cinema, diciamo così, ormai è sparso un po' dappertutto, non è più il cinema della sala buia e dello schermo. Mm-hmm. Quindi questo libro nasce da un desiderio di capire perché ci siamo trovati in questa situazione in cui 30 anni o più di storia gloriosa, benché d'avanguardia, benché diciamo non di massa, no? Dell'arte video, quindi che ha visto artisti importantissimi, ha visto una produzione teorica magnifica, sia di artisti che da Bill Viola a Vita Conci ad Antonio Mintado, tutti artisti che hanno avuto una riflessione, Van Jumpai stesso. Ecco perché dopo gli anni 90, con l'avvento del digitale, la parola video e la produzione videografica è stata in un certo senso, io dico, amnesia e cannibalizzazione del video. Questo è il sottotitolo del libro. Amnesia nel senso di una dimenticanza, di una rimozione, di un voler tacere su questa storia che ha modificato e trasformato il linguaggio audiovisuale, insomma, sia MTV, videoclip, sia il cinema stesso, e che cannibalizzazione nel senso dove si ritrova oggi tutta la sperimentazione sull'immagine e il suono che il video ha prodotto in questi 30 anni fino agli anni 90? Allora, mi venivano in mente un paio di considerazioni. La prima è che comunque c'è il formato del cosiddetto cortometraggio, anche d'autore, al quale che sicuramente ha difficoltà di fruizione pubblica, soprattutto penso soprattutto alle sale cinematografiche. Però a questo formato sono stati dedicati anche festival, soprattutto legati magari al cortometraggio artistico. E dall'altra parte la digitalizzazione ha democratizzato, diciamo così, l'uso del video, per cui oggi su YouTube c'è anche una sovrapproduzione di questo formato. Sicuramente non si tratta degli stessi video di cui stai parlando tu, però insomma si trova un mare magnum oggi in rete. Sì, questo è vero, ma per esempio tu parlavi di cortometraggio, ma non ti sembra desueta la parola cortometraggio nel momento in cui non c'è più la pellicola? Cioè, 10 anni fa si parlava di video, non di cortometraggio. Il video è stato senza genere, non ha avuto un genere, certo. Fiction, documentario, eccetera. Il video era questa libertà assoluta di oltrepassare la narrazione, di oltrepassare la finzione, di oltrepassare i personaggi. Ed era, insomma, abbiamo avuto una produzione video molto legata alla realtà, alla politica, alla militanza, alla controinformazione. Certo. Ai movimenti di lotta, cioè, quindi perché oggi c'è il bisogno di chiamarlo cortometraggio e di reinserirci in un discorso di genere che di fatto è superato? Cioè, sì. Il film ultimo di Franco Maresco, presentato alla Biennale di Venezia del cinema fuori concorso, quello dedicato a Franco Scaldati, no? Gli uomini di questa città non li conosco. È un racconto sulla vita e sull'opera di Franco Scaldati. Che cos'è? Un film, un documentario, cioè qualcosa che va al di là della definizione classica. Sì. E quindi sento che in questi anni stiamo vivendo una regressione linguistica, una regressione concettuale, mentre contemporaneamente continua, diciamo così, come dicevi tu prima, una produzione che è una produzione discussione, diciamo così, che ha perso un po' dei punti di riferimento teorici, concettuali, e che se ce l'ha, come in Francia, perché il libro poi presenta anche il dibattito, cioè che sta avvenendo in Francia da una decina d'anni su un rapporto tra cinema e arti visive, e soprattutto tra cinema e arti visive, quindi parla anche di questa nuova dimensione del cinema cosiddetto espositivo che si presenta nei musei. Quindi in Francia c'è una tendenza, una direzione che sia teorica che artisti hanno invocato, ma a me sembra una direzione voglio dire un po' strana, insomma, cioè nel senso che i registi di cinema, se vogliono fare un'installazione, vanno nei musei, ma non c'è bisogno di teorizzare che il cinema debba andare nei musei, perché la sala chiusa, la sala buia non c'è più. Abbiamo la sala buia ancora oggi, abbiamo la possibilità di vedere i film in streaming, sul computer, sullo schermo del televisore, sul telefonino, eccetera, eccetera. Senti, senti, a livello di produzione e anche di fruizione, hai seguito dei casi interessanti che vanno magari in controtendenza? In controtendenza rispetto a cosa? Rispetto alla fine che lamentavi del video dopo appunto, come il titolo dell'incontro di oggi, il video dopo gli anni 90, insomma. Ma voglio dire, ne abbiamo tanti anche in Italia, insomma, in Ramartino abbiamo delle esperienze interessanti. Soltanto quello che io dicevo, vengo da una mostra di Aaron Frocchi a Valencia, insomma, che è stato un autore scoperto e esaltato solo dopo la sua morte. Insomma, Aaron Frocchi fa video, anche se lui ha una società di film che la chiama più produzione cinematografica, e ci sono chiaramente delle sperimentazioni che tengono conto dei linguaggi del web, di tutto questo mondo variegato delle immagini, dei videogiochi, e che riflettono sulla realtà, hanno una dimensione politica molto forte. Quello che manca, a mio avviso, è una cornice teorica, dispersi in un certo senso, perché facciamo fatica a individuarli, a seguirli, a riconoscerli. Ogni realtà è un po' a sé stante in questo campo, in questo momento storico. Sì, perché ci sono tantissimi festival, però ripeto, questi festival sono il Festival del Cinema d'Artista, del Film d'Artista, e allora andare a trovare, che ne so, a Firenze c'è stato lo Schermo dell'Arte a novembre, lo Schermo dell'Arte presenta sempre delle produzioni molto interessanti, emergenti, eccetera. Però anche là, lo Schermo dell'Arte che cos'è? Cioè, voglio dire, io lo so che cos'è, cioè c'è un po' di video, c'è un po' di film d'artista, c'è anche film vero e proprio. Però ripeto, quello che manca è una capacità poi di intrecciare a queste produzioni dei discorsi, delle contestualizzazioni, dove siamo, dove stiamo andando, e quindi una riflessione. Sì. Bene, allora ci dai i riferimenti per saperne di più, un sito internet, una pagina Facebook legata all'edizione del tuo libro, e poi ricorderemo anche l'incontro di oggi all'Accademia. Sì, il sito dell'editore Bulzoni di Roma, www.bulzoni.it. Benissimo, allora ricordiamo l'appuntamento, l'incontro, il video dopo gli anni 90 all'Accademia delle Belle Arti qui a Roma, e l'orario, Valentina? È alle 15:15. Quindi tra poco. Benissimo, sì. Allora io ti ringrazio, un abbraccio, un in bocca al lupo. Arrivederci, grazie. Ciao. Valentina Valentini, autrice del libro Medium senza Medium. Con noi Silvia Scola, co-regista del documentario Ridendo e Scherzando, in uscita in sala il 1° e 2 febbraio. Silvia, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao. Tra l'altro ti porto i saluti di Ottavia Monicelli, che è qui e tra un'oretta farà la trasmissione insieme a noi, Tracce di Cinema. Grazie, baciala molto. Bene. Silvia, a tuo papà abbiamo dedicato la copertina con una foto tratta proprio dal vostro documentario per questa settimana. Una nota che mi ha fatto molto piacere è stata l'affluenza di tanta gente alla Camera Ardente, che è stata allestita alla Casa del Cinema. Ce ne parlava proprio Giorgio Cosetti la scorsa settimana. Esce questo documentario, allora raccontaci un po' di questa storia, Silvia. Sì, dunque, vabbè, intanto sì, ringrazio veramente tutti, perché è stata un'affluenza particolare, cioè sì, noi eravamo sì. preparate ovviamente a dover affrontare la sua grandezza di artista, di regista, però veramente a questo livello no, cioè è stata proprio una manifestazione d'amore che va al di là, poi penso, della sua grandezza di regista. Una vera vicinanza. Sì, proprio umana. Abbiamo voluto appunto che fosse all'aperto alla Casa del Cinema, proprio per permettere a tutti di poter venire, e c'è stata appunto proprio una partecipazione umana più che al grande regista, più che un omaggio, è stato proprio quasi un attestato di affetto che ci ha veramente commosse. Mm-hmm. E la storia di questo documentario nasce in realtà prima di Che strano chiamarsi Federico, cioè l'ultimo film che poi mio padre ha fatto su Fellini, sull'amico. E nasce da una sua idea, perché hanno fatto molti ritratti su di lui, molti film belli, però continuavano a chiedergli da tutto il mondo, arrivavano richieste. L'ultima era stata di due poveri studenti giapponesi di Tokyo che volevano fare un ritratto di scuola, e lui, che ormai diceva di no a tutti, sia perché non ha mai amato le interviste, ma anche perché non ce la faceva più, e ci ha detto: ma perché non lo fate voi? E quindi è nata così, abbiamo cominciato a pensare questo ritratto, che però ovviamente non volevamo fare una cosa privata, non sul padre ma sul regista, quindi la sfida era questa, di raccontare Ettore Scola, poi regista, sceneggiatore, disegnatore, attivista politico, perché per lui quella è stata sempre poi la cosa più importante, più da vicino in quanto figlie, però anche con quel distacco che sarebbe servito a restituire un po' la sua figura. Lui si è reso disponibile pur non seguendo il nostro lavoro, è stato un lavoro molto lungo, noi abbiamo fatto 3 anni di ricerche nelle teche, nei repertori, perché l'idea che abbiamo avuto era quella di intervistarlo oggi da vivo. Lui diceva: mi state facendo un coccodrillo da vivo, in realtà poi appunto era invece così un ritratto il più completo possibile. E dall'altra appunto abbiamo fatto questa lunghissima ricerca di repertorio con l'idea di intervistarlo oggi, però di non farlo rispondere oggi alle domande, ma farlo rispondere nelle varie epoche, nelle varie interviste che lui dagli anni 60 a oggi aveva rilasciato. Mm-hmm. E quindi abbiamo da subito deciso di non essere noi, io e mia sorella Paola, ad intervistarlo, ma che fosse invece un attore, insomma un nostro alter ego che avrebbe potuto così essere anche un po' più di interesse che non le figlie. E quindi c'è questa intervista di Pif, che lo intervista oggi, ovviamente sulla sceneggiatura che avevamo scritto, e invece poi mio padre che risponde nelle varie epoche a seconda dell'argomento che trattiamo. Mm-hmm. Tra l'altro sulle origini artistiche di Ettore, ricordo, io sono amico di Fabiana De Bellis e quindi avevo visto già tutte le tavole del Marco Aurelio e qualche lavoro anche di tuo papà, e sì. Poi ne abbiamo riparlato anche in occasione del documentario che ha realizzato sulla rivista Marco Aurelio, cioè L'imperatore di carta. Sì. E quindi questo si lega anche un po' alle origini artistiche legate alla satira, che è stata un'origine che è stata proprio anche di molti altri del cinema italiano. Moltissime, è stata una generazione che è nata di grandi autori cinematografici, che è nata invece proprio in quelle fila lì, sì, cioè della satira, del disegno umoristico, quindi Fellini, Agge, Scarpelli, sì, Maccari, Flaiano, tantissime, cioè praticamente la stagione più alta poi del nostro cinema nasceva da lì, e anche da una capacità di prendersi per in giro loro stessi, quindi da un'autoironia, sì, che poi li ha sempre accompagnati, e poi ha reso grande la commedia all'italiana, insomma, perché era poi portatrice, in realtà, al di là dell'intrattenimento, era sempre portatrice di valori democratici per lo più, quindi insomma ha avuto anche una funzione proprio formativa, sì, per il paese, proprio perché era invece un cinema molto popolare. E poi c'è stata la radio, anche qui un altro filo, sì, che si riannoda. Sì, sì. E sì, perché ha iniziato con degli sketch per sordi, il teatrino di Alberto Sordi nei primissimi anni 50. Mio padre poi era giovanissimo, perché lui ha cominciato a frequentare la redazione del Marco Aurelio a 16 anni, cioè andava a scuola, però siccome da piccolo questo Marco Aurelio circolava per casa, lui lo conosceva fin da quando era piccolo, e poi ha iniziato, appunto, è entrato prestissimo, quindi è diventato sceneggiatore molto molto presto, perché lì ha incontrato Agge Scarpelli e Maccari, e quindi ha cominciato a partecipare alle sceneggiature, che allora si scrivevano in 4, 5, 6, a volte anche in 10 sceneggiatori si mettevano insieme per scrivere un film, e quindi ha cominciato molto molto presto. Ha avuto, insomma, diciamo che comunque quella formazione è rimasta poi molto peculiare nel suo cinema, perché sì, poi fino alla fine ha continuato a fare un cinema comunque popolare e comico più possibile. Sì. Senti, poi il grande pubblico, io vado per memoria cinematografica, sì, è stato legato a Riusciranno i nostri eroi, immagino. Diciamo da lì, sì, c'è stato il successo come regista. Lui come sceneggiatore era molto noto, sì, e sì, anche perché appunto ha scritto il moltissimi film per Pietrangeli, per Risi, quindi diciamo comunque anche di successo, film di successo. Certo. Però il suo, poi lui esordì perché era molto amico di tutti quei grandi attori, ma in particolare di Vittorio Gassman, che appunto si incaponì, che doveva girare lui una certa sceneggiatura che avevano scritto per altri, e quindi questo esordio con, se permettete, Parliamo di donne, che era un, sì, film a episodi, però diciamo molto inferiore a livello delle sceneggiature che scriveva lui, è dello stesso anno, per dirti, Io la conoscevo bene di Pietrangeli, che lui aveva scritto insieme a Maccari per Pietrangeli, che poi Pietrangeli non scriveva, e poi invece ha esordito con Se permettete Parliamo di donne, poi ha fatto La congiuntura sempre con Gassman, e poi L'arcidiavolo sempre, sì, con Gassman, che erano insomma delle commedie, sì, di costume, ma insomma abbastanza fini a se stesse. E invece diciamo il giro di boa che avevamo individuato anche con Paola, mia sorella, quando abbiamo iniziato a pensare il documentario su di lui, è stato proprio Riusciranno i nostri eroi, sì, sì, in cui alla commedia solo da ridere si aggiungeva però già quello spessore di messaggio, appunto, di critica contro la società borghese, la società dei consumi, che era appena cominciata, con appunto un ritratto di un uomo che decide di rimanere in Africa, di non tornare, sì, in Italia al banchetto del consumo, diciamo. Sì, sì. Senti, poi la vado sempre a memoria, La consacrazione, un film che poi ha rappresentato anche un manifesto per un periodo storico di un intero paese, è stato C'eravamo tanto amati. Sì, nel 1974 lui aveva già fatto Dramma della gelosia, sì, aveva fatto anche Trevico Torino, che ovviamente essendo molto più politico e più impegnato ebbe pochissimo successo, e poi però sì, con C'eravamo tanto amati è stata proprio una pagina molto importante, non solo poi per il cinema ma proprio per la cultura italiana, perché era stato un rispecchiare, tra l'altro era del 74 il film, e il personaggio di Gianni, che era appunto un socialista che poi per soldi che si compromette, annunciava, anzi prevedeva di buoni 20 anni, Mani Pulite, diciamo, tutto lo scandalo di Mani Pulite avvenuto poi nel 92, mentre lì c'era proprio un percorso appunto di compromissione dei valori che portava a scegliere i soldi e gli interessi privati agli ideali, insomma. Ho visto che sulla tua pagina hai pubblicato una foto in bianco e nero sui funerali di Berlinguer, sì. E questo mi ha fatto venire in mente quanto una intera generazione di cineasti fosse legata all'impegno politico e poi anche facevano anche gruppo, cosa molto diversa dall'oggi, per esempio, e si frequentavano, c'era uno scambio continuo, insomma una cosa che oggi avviene molto poco. Sì, questo devo dire ha caratterizzato veramente la loro generazione, perché poi è stata molto grande anche in letteratura, nella pittura, cioè era un periodo veramente d'oro della cultura italiana. Però c'era anche questo, che il loro impegno politico, poi civile, diciamo sociale prima di tutto, sì. Cioè non partitico, certo, proprio politico, certo. Nel senso più alto, proprio era quello che li cementava, e c'era quindi una circolazione, uno scambio, un fermento proprio culturale dato anche da questo, dalle loro discussioni, dal loro stare sempre insieme, essere molto amici, essere sentirsi chiamati a dare il loro contributo perché l'Italia diventasse più democratica, diventasse, cioè, dopo appunto dopo il ventennio, dopo la Democrazia Cristiana, dopo comunque una società che continuava ad essere borghese e liberista e liberale, c'era da parte loro proprio lo sforzo di dare una coscienza democratica e di progresso al paese. E la loro amicizia era veramente sincera, profonda, anche se non per forza assidua, cioè non era un fatto di frequentazione, sì, però sì. Ecco, vedi che al funerale di Berlinguer c'erano tutti, cioè c'era proprio una compattezza proprio di valori da condividere e da portare avanti con la bandiera, anche a costo. Mio padre per esempio ha sempre scontato una critica ferocissima del suo cinema, proprio perché comunque conteneva sempre una critica graffiante, certo. Della società della società borghese e di quello a cui si accingeva a diventare l'Italia. Silvia, il documentario esce il 1 e 2 febbraio, ecco, ci spieghi un attimo che succederà, in quante copie, poi se ci saranno anche giorni a venire in altre sale d'Italia? Guarda, crediamo di no, nel senso che appunto è stato pensato questo evento, sono 2 giorni, l'1 e il 2 febbraio, in tutta Italia contemporaneamente, uscirà in 190 copie, quindi tantissime, sì. In tantissimi cinema, però solo questi 2 giorni. Poi penso che come tutti i documentari avrà una vita, spero, sulle televisioni, insomma verrà venduto come documentario, però diciamo questo evento in sala è stato pensato proprio come omaggio a lui, non era previsto, però appunto vista veramente l'attestato di affetto, di stima e d'amore, i produttori Carlo Degli Esposti per la Palomar e Massimo Villar per la Ser Film ci hanno fatto questo regalo, e adesso è distribuito da 01 in tantissime copie, però è previsto solo lunedì e martedì prossimi, quindi anzi appunto preghiamo di andarci, cioè. Perché invece qualcuno ha scritto oggi, forse resterà, però non è previsto, sì. È prevista solo quest'uscita e poi speriamo che esca il DVD, insomma. Noi siamo molto soddisfatte, soprattutto con Paola, perché è piaciuto a nostro padre, cioè lui così critico, sì, che non gli è mai piaciuto nulla, ha sempre odiato le celebrazioni, le commemorazioni, anche da, invece alla fine era molto soddisfatto, e questo per noi è stato il più grande traguardo, quindi noi l'abbiamo raggiunto, però insomma ci farebbe molto piacere se la gente andasse a vederlo. Bene. Silvia... un omaggio ridendo e scherzando, cioè abbiamo deciso di fare un omaggio a scuola ridendo e scherzando oggi con quest'uscita. E certo. E speriamo che venga raccolta. Silvia, io ti ringrazio, un abbraccio, speriamo di sentirci prossimamente. Grazie a voi, grazie mille e mi raccomando andate a vederlo. Ok. Grazie. Ciao Silvia. Ciao, ciao. A presto, ciao. Silvia Scola, co-regista del documentario Ridendo e Scherzando, in uscita in sala il 1° e 2 febbraio. Andrea Zambelli, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Eccoci. Buongiorno, buongiorno a tutti. Tra l'altro oggi sei chiamato a un doppio impegno perché ci sentiremo anche tra un'oretta per Tracce di Cinema, per una colonna sonora, visto che del tema techno in parte te ne sei occupato anche tu con un tuo lavoro. Quest'oggi invece a Visionari per parlare di un altro documentario, Il Rawa di Mon Amour, che ho avuto modo di vedere proprio stamattina, per cui oltre ai complimenti raccontiamo un po' di questa vicenda a chi ci ascolta, Andrea. Allora, questo film è abbastanza particolare perché racconta la storia di un matrimonio tra due uomini che è avvenuto nel Myanmar, in un villaggio rurale, un villaggio abbastanza fuori dai centri più grossi del Myanmar. È stata una situazione che abbiamo incontrato praticamente quasi per caso, nel senso che questo film è stato fatto con altri due registi che sono Valeria Testagrossa e Nicola Grignani. Valeria conosceva questo villaggio perché l'aveva incontrato nel corso dei suoi viaggi e ci ha proposto di andare a vedere se la situazione che aveva visto nel villaggio era ancora quella o se la nuova apertura, diciamo così, che stava avvenendo nel Myanmar aveva modificato un po' la situazione ed era possibile magari girare un film. Quando siamo scesi per fare il sopralluogo abbiamo incontrato questa storia, abbiamo incontrato comunque le persone che già Valeria conosceva e stavano comunque cercando di organizzare, era un po' che avevano in ballo di organizzare questo matrimonio tra questi due uomini. Abbiamo deciso subito di fare di questa storia il cuore del film, insomma. È comunque un film corale perché oltre che lo sposo e la sposa intervengono altri personaggi, che soprattutto quello di Miu Miu, che è un po', diciamo così, la persona che mette in moto tutto il meccanismo per cui questi due ragazzi riescono a sposarsi. E niente, abbiamo costruito questo film che è andato abbastanza bene, insomma. Siamo già stati a Festival di Torino, all'IFA di Amsterdam e insomma siamo contenti. Tra l'altro questo protagonista che nominavi poco fa è stato anche il promotore di un incontro per la difesa dei diritti degli omosessuali che si vede a metà del documentario. Non so, sì, poi Miu Miu è una persona che ha tantissime sfaccettature ed è veramente una persona che investe tutta la vita del villaggio nei vari aspetti, perché Miu Miu è un leader locale del partito di Aung San Suu Kyi, della National League of Democracy, quindi è impegnato in attività politica, diciamo così, militante, però è anche lo sciamano del villaggio, nel senso che fin da quando era bambino, si può dire, ha avuto questo rapporto privilegiato con i Nat, che sono gli spiriti di questo culto pre-buddista, e quindi è un sacerdote di questo culto, è un vero e proprio sciamano, e quindi assolve sia una funzione, diciamo così, politica sia una funzione spirituale all'interno del villaggio. Essendo comunque anche lui omosessuale, ha trasferito anche la sua battaglia non solo dai temi, diciamo così, politici, più dell'NLD, ma più specifici sulla lotta LGBT. E quindi ecco, abbiamo avuto anche l'occasione di filmare questo meeting, che era probabilmente il primo meeting gay che all'interno del villaggio di Cham Yaun. È stata un'esperienza molto, molto, anche molto toccante, perché le testimonianze erano veramente, insomma, più che un vero proprio una propria riunione politica, era più una sorta di sharing esperienziale tra queste persone, con un'idea poi di rimanere comunque in connessione, di provare a spingere, soprattutto magari approfittando anche del clima politico che da novembre comunque è cambiato, nel senso che poi l'NLD ha vinto le elezioni, e quindi di provare comunque a ritornare a fare movimento anche per la questione specifica dei diritti LGBT. Ecco, perché c'è un discorso anche molto interessante sulla Costituzione, sulle modifiche da apportare proprio grazie ad un movimento d'opinione, perché nella loro Costituzione si parla di regole e leggi, ma non si parla di diritti. Infatti questa è stata una delle, questo è stato questo meeting politico che abbiamo filmato, l'abbiamo colto durante il sopralluogo, quindi a luglio del 2014. E è interessante perché questa campagna politica che lui portava proprio anche nelle micro situazioni, perché come hai visto anche nel film, la situazione assembleare è proprio un villaggio sperduto all'interno delle campagne, proponeva proprio una modifica della Costituzione, in particolare perché avevano fatto questa legge ad hoc anti Aung San Suu Kyi, che chi era sposata con una persona non birmana non poteva accorrere alla presidenza, quindi il loro motivo primario era quello comunque di agire su quella legge lì, o comunque formare un movimento di opinione relativo a questa specifica parte della Costituzione. Senti, quanto vi ha impiegato di tempo questo lavoro? Ma diciamo che il film è stato una vera e propria avventura, perché soprattutto girare in Birmania comunque non è semplice, sia dal punto di vista burocratico per avere i permessi e sia dal punto di vista soprattutto culturale, nel senso che vieni precipitato comunque in una dimensione culturale molto distante dalla tua. Durante tutto il primo sopralluogo, per i primi 2 settimane non abbiamo avuto un interprete, quindi ci siamo letteralmente, abbiamo comunicato letteralmente a gesti, in maniera empatica con le persone, riuscendo comunque già a stabilire una connessione molto forte, nel senso che queste persone avevano proprio voglia di fare il film, nel senso, forse rappresentavamo anche un po' una novità, nel senso che c'è stati probabilmente i primi cittadini non birmani a stare nel villaggio anche a dormire, che era una cosa che in teoria non si poteva fare. Infatti durante il primo sopralluogo abbiamo dovuto alloggiare una cittadina a 50 km dal villaggio, siamo riusciti a affittare 2 motorini, cosa anche lì totalmente, diciamo così, fuori dagli schemi, perché in teoria un birmano non è permesso affittare motorini a uno straniero, e tutte le mattine facciamo questi 50 km andare, 50 km tornare di sterrato con il cavalletto, le camere, tutto dietro alla schiena, andavamo a girare e poi tornavamo indietro. È stato veramente massacrante, quindi per il secondo step di riprese invece abbiamo mosso una serie di canali che ci hanno permesso di dormire in una delle capanne del villaggio e quindi di avere anche una presenza molto più costante all'interno della vita quotidiana del villaggio, e soprattutto di non esaurirci con questi 100 km di sterrato tutti i giorni, che comunque erano diventati veramente cominciavano a diventare un ostacolo abbastanza insormontabile dal punto di vista della stanchezza. Senti Andrea, e comunque questo piccolo villaggio rappresenta una punta di avanguardia rispetto ai movimenti, alle lotte per i diritti. Ma assolutamente sì, perché comunque il movimento comunque esiste magari nei grandi centri, però che in questo piccolo villaggio, perché conta 1 migliaio di abitanti più o meno, Chamiao, che ci sia un movimento così forte è assolutamente merito del lavoro che in questi anni ha fatto Miu-Niu, nel senso che Miu-Niu si è sempre speso per sensibilizzare comunque le persone rispetto alla questione dei diritti LGBT, e ha aiutato anche molte persone del villaggio a riuscire magari a costruirsi una professionalità come parrucchiera, come truccatrice, che sono i lavori che principalmente svolgono queste persone, come danzatrici. Era comunque già prima che esistesse, diciamo così, un movimento vero e proprio di rivendicazione, era già comunque il suo lavoro aveva già messo comunque il villaggio in una prospettiva comunque diversa, molto più, diciamo così, progressista rispetto, contiamo che stiamo parlando di uno spazio che è assolutamente rurale, che quindi vive anche di un certo tipo di arretratezza, diciamo così, dei servizi, delle infrastrutture, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, direi che proprio hai detto bene, può essere considerato, diciamo così, un'avanguardia di come questo tipo di movimento tenta anche di agire adesso non solo sui centri metropolitani, ma sulle aree urbane, avendo anche attenzione alla micro situazione, alle specifiche anche territoriali e anche etniche del territorio, perché comunque in Birmania ci sono comunque 6-7 etnie che sparse su tutto il suolo birmano, che hanno anche, insomma, lingue diverse, abitudini, culture diverse. Sì. Senti Andrea, in chiusura ci dai riferimenti per saperne di più sul percorso che farà questo documentario? Allora, adesso in questo momento stiamo un attimo in attesa di avere risposte di alcuni festival europei, extraeuropei, piuttosto importanti a cui abbiamo proposto il film. Dopodiché cercheremo di sviluppare una micro, per quello che è possibile nel documentario in Italia, una microcircuitazione in sala. Adesso non sappiamo ancora bene a che società di distribuzione appoggiarci, okay. Stiamo un attimo verificando un po' di situazioni, dopodiché procederemo invece a livello distributivo con i DVD e il video on demand attraverso la rete. E comunque c'è una pagina Facebook già disponibile per saperne di più. Allora, Wadi Mon Amour, adesso non mi ricordo esattamente perché non seguo quella la comunicazione, sì. La comunicazione online. E la pagina di crowdfunding invece è già stata chiusa perché è finito, cioè avevamo un tempo di 2 mesi solo di compressione, però ecco, magari digitando Irrawaddy Mon Amour direttamente su Google trovi già l'indirizzo della pagina Facebook di sicuro. Bene. Andrea, ci sentiamo tra un'oretta. Un abbraccio. Ciao. Ok, dai, grazie mille, ciao Federico, ciao. Andrea Zambelli, regista del documentario Irrawaddy Mon Amour. Questo è Visionari su Radio Onda Rossa, il cinema, tutti i giovedì dalle 14 alle 15. In collegamento con Adele Talarico, regista del documentario Tu conosci Francis, che ciao, sarà... Ciao Federico. Ciao, ben ritrovata e benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa, Adele. È un piacere essere in onda su Radio Onda Rossa. Non so se tu lo sai, anch'io sono un'appassionata di radio e sto a Radio Città Aperta, in vedi. Delle radio cugine. Senti, parliamo di questo documentario che parla di una persona fuori dal comune, un'amica della radio che sarà presentato a Strike S.P.A. qui a Roma il 30 gennaio, cioè sabato. È un'iniziativa che prevede anche musica, ci saranno appunto le immagini di questo lavoro. E raccontacelo un po', Adele. Subito, con piacere. Allora... Federico, questo lavoro nasce da una necessità creativa, nel senso, nel momento in cui mi trasferì a Roma circa 3 anni fa, io vengo da un'esperienza di ideatrice e direttrice artistica di un festival del cinema che si teneva in Calabria. Poi, se vuoi, torneremo su questo. Una volta trasferitami a Roma, già conoscevo Francesco Francis da una 10 anni. In quel momento mi venne l'idea, insieme a Gianluca Saporito, che è uno degli autori insieme a Matteo Grasso del documentario, di girare un documentario su Francis. E in che cosa consisteva questo girare il documentario su Francis mentre era in vita? Perché questo documentario nasce in accordo con lui per raccontare la sua vita artistica, il suo modo di essere fuori da ogni schema, da ogni sistema. Infatti questo documentario vuole divulgare l'immagine di Francis quasi come una linea attraverso un senso, una percezione di ciò che era lui come artista, di come riuscisse a stupire le persone che incontrava attraverso dei mezzi banalissimi, se vogliamo, ma che nelle sue mani diventavano delle vere e proprie opere d'arte. Quindi questo racconterà questo documentario. Tu conosci Francis, proprio il tu è rivolto un po' a tutti noi, a tutti quelli che l'hanno incontrato e anche, se vuoi, a chi non l'ha incontrato. Che voglio dire con questo? Ha un senso quello che dico. Se ti capita di camminare per Roma e chiedi ad una persona in centro tu conosci Francis, 1 su 5 ti potrà rispondere di sì. Ecco il motivo del titolo, perché veramente Francis è una persona, un genio. Nel documentario Bobbo dice che il genio è la persona che vede il mondo con altre lenti, e Francis era proprio questo. Quindi il nostro intento è quello di mostrare al pubblico quello che Francis faceva con la sua arte, diffondendo stupore e benessere. Senti, per quanto tempo lo avete seguito per realizzare questo lavoro? È stato un lavoro lungo 3 anni. 3 anni. Perché Francis è stato seguito, nel senso non ha avuto una sceneggiatura. Okay. E ciò ci ha permesso di arrivare a questo tipo di documentario che io definisco un docufantasy, anche perché è un documentario adatto ad adulti e bambini. Senti. È stato seguito in qualche modo. Non è stato lui ad entrare nei nostri mondi, ma siamo stati noi, sì, con molta delicatezza e umiltà, ad entrare nel suo mondo, perché se tu conoscevi Francis, ma suppongo di sì, sì. Hai ben presente come fosse, e quindi bisognava essere anche molto delicati per entrare nella sua vita e vivere un po' come viveva lui, non del tutto, ma cercare di capire le motivazioni del suo essere. Senti, per chi ci ascolta e non lo conosceva e magari verrà a vedere il documentario sabato 30, anticipiamo qualcosa sulla persona. Quali erano le sue manifestazioni artistiche, Adele? Allora, Francis negli ultimi tempi utilizzava molto gli stencil. Okay. Secondo lui erano e saranno l'arte del futuro, perché si poteva fare di tutto. Le bolle, le serigrafie, i murales, e anzi, ti dirò una cosa importantissima. Francis, io spero che da questo documentario esca fuori il Francis Basker. In che senso? Il primo vero artista di strada di Roma. Lui partecipò anche alla nascita del collettivo di Piazza Mastai, degli artigiani di Piazza Mastai negli anni 70, con Tiziano Fario, che è stato lo scenografo di Carmelo Bene. All'epoca, negli anni 70, loro furono i primi a dipingere le saracinesche, le serrande dei negozi. Come ben sanno tutti, ora va tanto di moda, no? Dipingere le serrande, se ne parla tanto, Roma è strapiena di queste serrande. Francis fu il primo, uno dei primi a fare questo tipo di arte di strada a Roma. Al di là delle sue performance fatte proprio con il corpo, attraverso le bolle di sapone, il suo modo di vestire così colorato e portare gioia ovunque. Non so se sono riuscita a spiegarmi. Sì, sì. Allora diamo l'appuntamento a chi vuole conoscere questa persona così speciale, così vicina anche a questa radio. Ricordiamo l'appuntamento Ricordiamo che l'appuntamento di sabato è una serata anche è la serata di sottoscrizione volontaria per Radio Onda Rossa. Certo. Perché Francis era una radio come dire ambulante. Lui aveva con sé sempre la radio, ascoltava sempre Radio Onda Rossa, e quindi la serata di sabato sarà una serata importante in suo onore, in cui Radio Onda Rossa cercheremo anche, no, di dare una mano ad una radio che ora si trova, credo, in difficoltà, un po' come tutte le radio indipendenti, in onore a Francis. In più ci saranno due gruppi che suoneranno allo Strike, quindi lo Strike era anche il luogo dove lui è vissuto negli ultimi 10 anni, giusto Federico? Eh sì, quindi un motivo in più per essere con noi sabato 30 allo Strike qui a Roma. Adele, io ti abbraccio, a risentirci presto. A risentirci, un abbraccio. ciao. Adele Talarico, regista del documentario Tu conosci Francis, allo Strike SPA qui a Roma sabato 30 gennaio. Bene, allora non c'è Ambra ma c'è Cristina. Ci sei, Cristina? Sì, salve, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Allora, l'ufficio stampa del progetto All Cinema. Ok, All Cinema Brescia 2016, la presentazione c'è stata a novembre e adesso invece comincia proprio da domani questa rassegna, andrà avanti fino al 10 giugno ma anche oltre. Le date finora stabilite sono fino al 10 giugno, però è previsto anche un seguito. Parliamo intanto del progetto All Cinema, Cristina. Sì, il progetto Il Cinema è nato nel 2012 e nasce da un sogno, quello della fotoreporter Ambra Kreiger, che è quello di fotografare e raccogliere immagini e testimonianze dei vecchi cinema sparsi in tutto il mondo. In realtà nel 2012 il progetto, diciamo, si è concretizzato perché abbiamo iniziato a concentrarci sulle sale perdute di tutta Italia, ce n'è veramente una miriade in tutta Italia, e da allora ci occupiamo del monitoraggio di queste sale e della loro valorizzazione e, dove possibile, in collaborazione con gli enti locali, anche della loro riapertura per eventi straordinari o in qualche caso con studi di fattibilità per una loro riapertura permanente. Questo è un po' il sogno che noi inseguiamo dal 2012, un sogno che si è tradotto in realtà grazie anche a collaborazioni scientifiche di prestigio. Te ne cito alcune, per esempio il Politecnico di Milano, Luce Cinecittà, ultimamente abbiamo avuto anche il sostegno del MIBACT. Quello che stiamo facendo nell'ultimo anno e mezzo in particolare è una specializzazione sulle iniziative digitali e legate anche ai social network, nel senso che il nostro intento è tra gli altri obiettivi è quello di costruire proprio un archivio vivente di questi luoghi straordinari e di farlo anche attraverso le segnalazioni che arrivano dal basso, quindi le segnalazioni degli utenti che ci arrivano sulle nostre pagine Facebook e sul nostro profilo Twitter. E da questo punto di vista, insomma, abbiamo lanciato già parecchie campagne, una delle quali anche in occasione di Il Cinema a Brescia 2016, che svuota le soffitte, e raccogliamo veramente tante tante testimonianze emozionanti e altrimenti andrebbero perdute. Difficilissimo fare un monitoraggio sul campo soltanto dall'alto, perché questi cinema sono veramente migliaia in tutta Italia. Considera che abbiamo trovato delle province in cui diciamo il numero di cinema era incredibile, benché la provincia fosse piccolissima. Per esempio in provincia di Trento, solo in provincia di Trento abbiamo trovato 33 old cinemas, alcuni di questi avevano magari soltanto, di questi rimaneva soltanto un'insegna o un ricordo di un anziano spettatore. E per tutto questo è importante veramente la partecipazione, diciamo quello che noi chiamiamo una realtà partecipata. Sì. Senti, volevo chiederti, stanno aumentando questi vecchi cinema abbandonati e poi stanno aumentando anche i recuperi in qualche modo? Diciamo che sta aumentando una sensibilità da parte degli enti locali, ma anche del MIBACT. Come sappiamo, è recente una direttiva emanata dal ministro Franceschini appena un anno e mezzo fa, proprio per far sì che queste realtà diventino esattamente dei beni artistici tutelati dalla sovrintendenza. Quindi diciamo che anche gli enti locali si stanno muovendo in questo senso. Okay. Noi ci siamo occupati, come forse vi abbiamo già raccontato, nel 2014 di un vecchio cinema degli anni 50 a Mentana, in provincia di Roma, l'ex Cinema Rossi, un cinema storico. E lì, per esempio, ecco, un piccolissimo comune, tra l'altro con enormi difficoltà finanziarie, si sta battendo anche, diciamo, utilizzando fondi europei per non farlo chiudere. Insomma, si voleva abbattere per realizzare una piazza più grande o addirittura un parcheggio, e invece, insomma, con enorme fatica stanno cercando comunque di non chiuderlo. Questo tipo di sensibilità effettivamente ci arriva da parecchie città e soprattutto dalle città di provincia. È questo, diciamo, il dato che forse ci sembra emergente. C'è sete comunque di cinema da parte della popolazione e anche dei giovani. E quindi diciamo il trend è positivo da questo punto di vista. Poi non è sicuramente facile, non è sostenibile, bisogna ripensare queste sale. Senti, per la rassegna di Brescia come è stata strutturata, con appuntamenti settimanali? Raccontaci un No, diciamo sono un po' più comodi questi appuntamenti, sono con una cadenza più o meno mensile. O al massimo due appuntamenti al mese, tutti con grandi protagonisti del mondo del cinema e della cultura, da Carlo Verdone a Giuliano Montaldo. Abbiamo anche Abel Ferrara, che sarà con noi per una masterclass sui luoghi maledetti del cinema, Massimo Cacciari, Mario Botta, Gerardo Colombo, Ettore Mo, il grande giornalista, lo storico inviato del Corriere della Sera. E gli appuntamenti appunto sono diversificati, andiamo dalle proiezioni con il classico incontro con il regista, alle lectio magistralis e così via. Tutti gli appuntamenti comunque li potete trovare sui nostri due siti, il sito nazionale www.oldcinema.net e anche il sito dedicato alla manifestazione di Brescia, che troverete online proprio da domani quando iniziamo con Pupi e Antonio Avati, www.oldcinemabrescia.net. Cristina, un abbraccio e a risentirci. Grazie. Presto. Ciao. Grazie a tutti gli ascoltatori e arrivederci a Brescia. Grazie. Ciao. Cristina Gattamorta sulla rassegna Old Cinema Brescia 2016 dal 29 a gennaio al 10 giugno. Federica Pacifici di Partenos sulla distribuzione del film Una volta nella vita, in uscita in sala, è uscito ieri. Federica, ben ritrovata. Grazie mille Federico, ciao a tutti. Per chi ci ascolta, Una volta nella vita, cos'è questo lavoro? Una volta nella vita, è l'ultimo film distribuito da Partenos ed è un film che, come hai ricordato tu, abbiamo fatto uscire in occasione della giornata della memoria, perché in qualche modo il protagonista silente, se vuoi, del film è la Shoah, è la memoria, la deportazione, ma di fatto il vero protagonista del film che è ispirato a una storia vera, realmente accaduta, poi magari ti dirò qualcosa in più, è l'avventura di questa classe, una classe di un liceo della banlieue parigina, che forse è, come dire, altrettanto attuale come argomento, no? Oggi come oggi, una classe che in cui praticamente neanche i professori hanno fiducia, una classe turbolenta, una classe molto come dire interculturale, multirazziale, e con tutto quello che, come dire, comporta la multirazzialità e l'interculturalità, quindi scontri, incomprensioni e comunque degli animi appunto turbolenti. Questi ragazzi in qualche modo hanno la fortuna di incontrare sulla loro strada la loro insegnante di storia, la loro coordinatrice, che a dispetto di tutta questa situazione decide di farli partecipare a un concorso che in Francia è molto famoso, un concorso appunto il concorso nazionale sulla resistenza e la deportazione, e quindi per dare loro un progetto comune. Adesso non voglio svelare, però devo dire che l'aspetto veramente più interessante del film è che questi ragazzi lavorando insieme vincono questo concorso, e lo vincono nel film, ma lo vincono soprattutto nella realtà, e quindi, come dire, è una storia, finalmente una storia, come dire, se vuoi, anche con tutte le sue leggerezze, positiva, e che ha una carica, come dire, molto importante, perché in qualche modo ti dice che attraverso la cultura, attraverso la conoscenza della storia, si realizza la vera unione, che forse è solo questo che in qualche modo genera la vera unione, genera il vero superamento delle barriere culturali. Senti, sulla regia, qualche suo lavoro precedente, la conosciamo già in Italia questa regia? Guarda, non che io sappia, sì, nel senso, okay, che per me lei è la prima volta che io la incontravo in qualche modo, okay, e soprattutto in qualche modo la cosa che ci interessava di questa congiunzione con la regista è stato appunto la collaborazione con Ahmed Dramé, cioè con questo ragazzo che in prima persona ha vissuto effettivamente l'esperienza di questa classe, cioè lui era nella classe che ha partecipato al concorso, che è musulmano, che ha raccontato la sua vicenda in un libro, e raccontando questa storia appunto alla regista, ha raccontato la storia alla regista, che si è innamorata in qualche modo di questa vicenda, un po' per quello che, per gli aspetti di cui ti parlavo, no? Sì. E quindi ha deciso di chiamarlo, di farsi raccontare per filo e per segno questa storia, entrando in tutti i dettagli, in tutto quello che è successo, in tutte le difficoltà, in tutti i successi, in tutte le visite che hanno fatto e via dicendo, e alla fine hanno deciso di mettersi a quattro mani a scrivere la sceneggiatura. Quindi questo ragazzo, all'epoca dei fatti sedicenne, all'epoca della scrittura della sceneggiatura diciottenne, si è trovato appunto a cooperare a quattro mani con la regista per la stesura del film, e ha anche interpretato il protagonista, per quanto poi è una storia collettiva, quindi ci sono più protagonisti, fra virgolette. Federica, in quante copie esce il film? Guarda, il film esce in 31 copie, ma sta lavorando molto anche con le mattinee scolastiche, infatti se qualcuno tra l'altro dei tuoi ascoltatori è interessato, digli pure di contattarci, perché è un film che sta lavorando molto bene con le scuole, anche perché è ambientato in una classe, per cui ti puoi immaginare la curiosità, sì. E quindi è, diciamo, insomma, piuttosto ci sono diverse copie in giro. Per la programmazione, per la distribuzione al pubblico è in 31 copie. Visto che voi siete a Roma siamo al Minion, all'Intrastevere e nelle due sale UCI, quindi Parco Leonardo e Porte di Roma. Federica, io ti abbraccio, in bocca al lupo, e a risentirci crepi, a risentirci presto. Ciao. Federica Pacifici di Partenas Distribuzione sul film Una volta nella vita, in uscita in sala il 29, è uscito ieri 27 gennaio e quindi è già in programmazione. È tutto per Visionari di questa settimana, ci sentiamo giovedì prossimo sempre dalle 14 alle 15, tra qualche istante Tracce di Cinema.